Ad alta voce, Maria Paiato legge Amatissima di Toni Morrison. Traduzione di Giuseppe Natale. Tua madre sta bene? Chiese Paul D. No, rispose Denver. No, neanche un po'. Pensi che dovrei andarla a trovare? Le farebbe piacere? Non lo so, rispose Denver. Credo di averla perduta, mia madre, Paul D. Per un momento restarono entrambi in silenzio. Poi lui disse: Ah, quella ragazza. Sai chi dico, no? Beloved. Sì? Pensi che fosse davvero tua sorella? Denver abbassò lo sguardo a terra. Certe volte penso che fosse qualcosa di più. Giocherellò con la sua camicetta, strofinando una macchia. All'improvviso riportò lo sguardo all'altezza del suo. Ma chi può saperlo meglio di lei, Paul D? Voglio dire, la conosceva anche lei? Lui si passò la lingua sulle labbra. Beh, se vuoi il mio parere... No, disse lei. Ho il mio. Sei grande, disse Paul D. Sì, signore. Bene. Beh, buona fortuna per il tuo lavoro. Grazie. E, Paul D, non è che lei debba stare alla larga da mia madre, però faccia attenzione a quello che le dice. Mi capisce? Non preoccuparti, rispose lui e la lasciò. O meglio, fu lei a lasciarlo, poiché un giovanotto arrivò correndo verso di lei e le disse: «Ehi, Miss Denver, un momento!» Denver si voltò verso di lui e il suo volto si illuminò, come se qualcuno avesse acceso un becco a gas. Paul D la lasciò di malavoglia, perché voleva parlare ancora con lei, cercare di capire le storie che aveva sentito. Un bianco era andato a prendere Denver per portarla al lavoro e Seth l'aveva assalito. Lo spirito della bambina era tornato a essere cattivo e aveva mandato Seth a colpire l'uomo che l'aveva salvata dall'impiccagione. Su un punto erano tutti d'accordo. Prima l'avevano vista e poi non l'avevano vista più. Dopo essere riusciti a mettere a terra Seth e a toglierle di mano il punteruolo per il ghiaccio, quando avevano guardato verso la casa, lei era sparita. Più tardi, un ragazzino sparse la voce che mentre stava cercando un'esca dietro al 124 vicino al fiume, aveva visto una donna nuda con dei pesci al posto dei capelli tagliare per il bosco. In realtà a Paul D non importa come quella cosa se ne sia andata via, e neppure perché. Gli importa il modo in cui lui era andato via e perché. Quando guarda se stesso con gli occhi di Mr. Garner, vede una cosa. Con gli occhi di Hall, un'altra. Uno gli dà un senso di giustizia, l'altro un senso di vergogna. Come quella volta, quando aveva lavorato per entrambi i contendenti della guerra di secessione. Scappando dalla North Point Bank per unirsi al 44esimo reggimento di colore nel Tennessee, pensava di avercela fatta, solo per poi scoprire che era arrivato a un altro reggimento di colore, riunito agli ordini di un comandante del New Jersey. Era rimasto 4 settimane. Il reggimento si era sciolto prima ancora di arrivare a risolvere il quesito se i soldati dovessero essere armati o no. No, così era stato deciso. E il comandante aveva dovuto escogitare qualcosa da comandargli, anziché uccidere altri bianchi. Alcuni dei 10.000 restarono lì a pulire, a trasportare o a costruire qualcosa. Altri passarono a un altro reggimento. La maggior parte furono abbandonati a se stessi, alla propria iniziativa, avendo come paga solo l'amarezza. Non aveva deciso ancora che cosa fare quando un agente della North Point Bank lo vide e lo riportò nel Delaware, dove lavorò come schiavo per un anno. Poi la North Point prese $300 in cambio dei suoi servizi in Alabama, dove lavorò per i ribelli, prima raccogliendo i morti e poi fondendo il ferro. Quando lui e il suo gruppo rastrellavano i campi di battaglia, il loro compito era quello di separare i confederati feriti dai confederati morti. Con cura, gli dicevano, con molta cura. Uomini di colore e bianchi, i volti coperti fino agli occhi, si aprivano il cammino attraverso i prati con le lampade, stando ad ascoltare se nell'oscurità si levasse qualche gemito di vita nel silenzio indifferente dei morti. Giovani, soprattutto, qualche bambino. E si vergognava un poco a provare un senso di pietà per quelli che immaginava fossero i figli dei guardiani di Alfred in Georgia. 5 tentativi di fuga e nessuna aveva avuto un successo duraturo. Ognuna, da Sweet Home, da Brandywine, da Alfred in Georgia, da Wilmington, dalla North Point, era stata frustrata. Solo, senza travestimenti, una pelle subito visibile, i capelli riconoscibili e senza un bianco a proteggerlo, era sempre stato preso. La fuga più lunga era stata quando era scappato con i forzati. Era rimasto con i Cherokee, aveva seguito i loro consigli e aveva vissuto nascosto a Wilmington, nel Delaware, con la tessitrice, 3 anni. E in tutte quelle fughe non aveva potuto fare a meno di restare stupito dalla bellezza di quella terra che non era sua. Si era nascosto nel suo petto, l'aveva maneggiata per nutrirsi, si era stretto alle sue rive per leccare l'acqua e aveva cercato di non amarla. Nelle notti in cui il cielo era di una bellezza particolare, indebolito dal peso delle stelle, si sforzava di non amarla. I cimiteri e i fiumi che vi scorrevano in basso, oppure solo una casa solitaria, sotto un albero di paternostro, magari un mulo legato e la luce che lo illuminava di fianco, solo questo. Qualsiasi cosa poteva commuoverlo profondamente e lui cercava in tutti i modi di non amarla. Dopo qualche mese trascorso sui campi di battaglia dell'Alabama, fu arruolato forzatamente in una fonderia di Selma, insieme con altri 300 uomini di colore, catturati, prestati o presi. Fu lì che lo trovò la fine della guerra. E lasciare l'Alabama dopo essere stato dichiarato libero avrebbe dovuto essere roba da niente. Avrebbe potuto andarsene a piedi dalla fonderia di Selma dritto a Filadelfia, prendere le strade principali, il treno se voleva, o un passaggio su una barca. Però non fu così. Quando lui e 2 soldati di colore, i quali erano stati catturati e strappati a quel 44esimo che lui aveva cercato, erano andati a piedi da Selma a Mobile, avevano visto 12 neri morti solo nei primi 30 chilometri. 2 erano donne, 4 erano bambini. Aveva pensato che quella sarebbe stata senza dubbio la passeggiata della sua vita. Gli Yankee, che avevano il controllo, lasciavano i ribelli senza controllo. Arrivarono ai sobborghi di Mobile, dove i neri stavano posando i binari per i soldati dell'Unione, binari che prima avevano divelto per i ribelli. Uno degli uomini che erano con lui, un soldato semplice di nome Kane, aveva raccontato a Paul D che li pagavano meno dei soldati bianchi. Era assai irritato perché come gruppo avevano rifiutato l'offerta che avevano fatto loro di provvedere a integrare la differenza nella busta paga. Paul D era rimasto talmente colpito dall'idea di ricevere dei soldi per combattere che guardava Alfante con ammirazione e con invidia. Keane e il suo amico, un certo sergente Rossiter, confiscarono una barchetta a vela e tutti e 3 raggiunsero così Mobile Bay. Lì il soldato semplice fece un segnale a una nave da guerra dell'Unione che li ospitò a bordo tutti e 3. Keane e Rossiter sbarcarono a Memphis per cercare i loro comandanti. Il capitano della nave permise a Paul D di rimanere a bordo fino a Wheeling, nel West Virginia. Da lì proseguì da solo fino al New Jersey. Quando era arrivato a Mobile aveva visto più morti che vivi. Però quando arrivò a Trenton, le masse di gente viva, né cacciatrice né cacciata, gli diede il sapore di che cos'era la vita libera. Un sapore che non scordò mai più. Camminando lungo una strada affollata, piena di bianchi che non gli chiedevano nessuna spiegazione per la sua presenza lì, le uniche occhiate che riceveva erano per i vestiti repellenti e per i capelli imperdonabili. Eppure nessuno lanciava grida d'allarme. Poi avvenne il miracolo. Mentre era in una strada, di fronte a una fila di case di mattoni, udì un bianco che lo chiamava. «Ehi tu, laggiù, dico a te!» perché lo aiutasse a scaricare due bauli da una diligenza pubblica. Dopodiché, l'uomo gli diede una moneta. Poldi se ne andò in giro per delle ore, non ancora sicuro di quello che avrebbe potuto comprarsi, un vestito, un pranzo, un cavallo, e se ci fosse qualcuno disposto a vendergli qualcosa. Infine, vide un verduraio che vendeva la sua mercanzia da un carro. Poldi indicò un mazzetto di rape. Il verduraio gliele porse, prese la sua moneta e gliene diede molte altre. Stupefatto, Poldi si allontanò, si guardò intorno e vide che nessuno sembrava interessarsi né allo sbaglio né a lui. Così continuò a camminare, masticando contento le sue rape. Solo alcune donne parvero vagamente disgustate quando lo incrociarono. Il suo primo acquisto, frutto di lavoro, lo esaltò. E poco importava che le rape fossero avvizzite. Fu allora che decise che mangiare, camminare, dormire dove voleva era una bella vita. E la fece per 7 anni, finché non si ritrovò nell'Ohio meridionale, dove erano andate una vecchia e una ragazza che conosceva da tempo. Ora compie il cammino inverso di quando se n'era andato. Prima il retro, vicino alla ghiacciaia. E Poldi è sorpreso dal proliferare dei fiori di fine estate dove dovrebbero esserci le verdure. I garofani, i convolvoli, i crisantemi. Quegli strani barattoli pieni di gambi marciti, fiori raggrinziti come ferite, rami di edera morta rimasti intrecciati attorno ai pali a sostegno dei fagioli e alle maniglie delle porte. Fotografie di giornale ingiallite sono attaccate con un chiodo agli annessi e agli alberi. Una corda troppo corta per poter essere utilizzata, se non per giocare a saltare, giace abbandonata vicino alla tinozza. E vasetti pieni di lucciole morte, come la casa d'una bambina. La casa d'una bambina molto cresciuta. Va alla porta davanti e la apre. C'è un silenzio assoluto. Nel punto in cui una volta l'aveva investito un fascio triste di luce rossa, bloccandolo lì dov'era, ora non c'è niente. Un pallore senza niente. Sembrava più un'assenza, ma un'assenza che deve attraversare con la stessa determinazione che aveva avuto quando, fidandosi di Seth, aveva superato la luce che pulsava. Dà un rapido sguardo alle scale d'un bianco abbagliante. L'intera ringhiera avvolta da nastrini, fiocchi, mazzi di fiori. Poldi si spinge dentro. La brezza che ha portato con sé da fuori fa agitare i nastrini. Facendo molta attenzione, non proprio affrettandosi ma senza neppure perdere tempo, sale le scale luminose. Entra nella stanza di Seth. Non è lì. Il letto gli sembra così piccolo che si chiede come facevano a starci distesi tutti e due. Non ha lenzuola e poiché le finestre sul tetto non si aprono, nella stanza c'è un odore stantio. Sul pavimento ci sono dei vestiti dai colori brillanti. Appeso a un chiodo c'è il vestito che Beloved portava la prima volta che l'aveva vista. Un paio di pattini per il ghiaccio riposano dentro un cesto, in un angolo. Volta di nuovo lo sguardo verso il letto e continua a osservarlo. Gli sembra un posto in cui lui non c'è. Facendo uno sforzo che lo fa sudare, cerca di vedersi lì disteso e quando ci riesce si sente meglio. Va nell'altra camera da letto, quella di Denver. È ordinata tanto quanto l'altra è caotica. Però ancora nessuna traccia di Seth. Forse ha ripreso a lavorare. È andata sempre migliorando dal giorno in cui lui ha parlato con Denver. Scende le scale per tornare di sotto, lasciando l'immagine di sé nel lettino. Arrivato al tavolo della cucina, si siede. Nel 124 manca qualcosa. Qualcosa di più grande della gente che ci viveva, qualcosa di più di Beloved, della luce rossa. Non saprebbe indicare che cos'è con esattezza, però gli sembra per un attimo che subito al di là della sua capacità di comprendere ci sia il riflesso di una cosa esterna che abbraccia e accusa allo stesso tempo. Alla sua destra, dove la porta del soggiorno è accostata, sente canticchiare. Qualcuno canticchia una canzone, qualcosa di tenero e di dolce, come una ninna nanna. Poi alcune parole. Sembra grande Johnny, grosso Johnny, dolce William, chinati di più. Ma certo, pensa, è lì che sta. E lei sta lì, distesa sotto una trapunta dai colori allegri. I suoi capelli, come le scure radici delicate delle buone piante, sono sparsi sul cuscino. Il suo sguardo, inchiodato alla finestra, è così inespressivo che Paul Dean non è sicuro che lei saprà riconoscerlo. C'è troppa luce lì, in quella stanza. Le cose sembrano false. «Asclepiade cresci orsù», canta Seth. «Lana calda sulle spalle, ranuncoli e trifoglio volan su». Maneggia tra le dita una lunga ciocca di capelli. Paul Dean si rischiara la gola prima di interromperla. «Seth». Lei volta la testa. «Paul Dean?» «Oh, Seth. Ho fatto l'inchiostro, Paul Dean. Lui non poteva farlo se io non facevo l'inchiostro». «Che inchiostro? Chi?» «Ti sei tagliato la barba». «Sì. Sto male?» «No, stai bene». «È il diavolo che ci mette lo zampino. Che cos'è questa storia che non ti alzi più dal letto?» Lei sorride. Lascia che il sorriso svanisca da solo e volge di nuovo lo sguardo alla finestra. «Ho bisogno di parlarti», le dice. Non risponde. «Ho visto Denver, te l'ha detto?» «Viene di giorno, Denver. È rimasta con me, la mia Denver». «Devi alzarti di qua, ragazza mia. È nervoso. Questa storia gli ricorda qualcosa». «Sono stanca, Paul Dean. Sono tanto stanca. Devo riposarmi un poco». Adesso sa che cosa gli ricordava. E allora le grida: «Non vuoi mica morirmi adesso? Questo è il letto di Baby Sachs. È questo che hai in mente?» È così arrabbiato che potrebbe ucciderla. Si controlla, ricordandosi delle raccomandazioni di Denver, e sospira. «Che cosa hai in mente, Seth?» «Oh, non ho in mente nulla, proprio nulla». «Senti un po'», le dice. «Denver sta qui di giorno, io sto qui di notte. Mi prendo io cura di te, mi hai capito? A cominciare da adesso. Per prima cosa hai un cattivo odore. Sta qui, non muoverti. Fammi scaldare un po' d'acqua». Fa una pausa. «Seth, ti va bene se scaldo un po' d'acqua?» «E mi dici anche quanti piedi ho?» gli chiede. Le si avvicina ancora. «No, te li strofino». Seth chiude gli occhi e serra le labbra. Pensa. «No. Questo posticino vicino alla finestra è tutto quello che voglio. E riposare. Non c'è niente da strofinare. Non c'è nessuna ragione per farlo. Non è rimasto niente da lavare, ammesso che lui sappia farlo. Lo farà un pezzo per volta. Prima la faccia, poi le mani, le cosce, i piedi, la schiena. Per finire coi suoi seni stanchi. E se la lava un pezzo per volta, le parti terranno». Apre gli occhi, sapendo che è pericoloso guardarlo. Lo guarda. La pelle color nocciolo di pesca, la ruga tra gli occhi pazienti, disponibili. E la vede, quella cosa che c'è in lui, quella benedizione che fa di lui la persona che può entrare in una casa e far piangere le donne. Perché con lui, in sua presenza, potevano farlo. Piangere e dirgli le cose che in genere si raccontavano tra di loro. Che il tempo non restava al suo posto. Che lei aveva chiamato, però Howard e Baglar si erano allontanati lungo i binari della ferrovia e non l'avevano sentita. Che Amy aveva avuto paura a restare con lei perché i suoi piedi erano mal ridotti e la sua schiena aveva un aspetto orribile. Che la sua signora aveva urtato la sua suscettibilità. E lei non riusciva a trovare più il suo cappello e... «Paul Dean, che cosa c'è, piccola?» «Lei m'ha lasciato». «Oh, ragazza mia, non piangere. Era la parte migliore di me. Poldi si siede sulla sedia a dondolo ed esamina la trapunta con le sue toppe dai colori carnevaleschi. Sente le proprie mani inerti tra le ginocchia. Quella donna gli suscita troppi sentimenti, gli fa male la testa. All'improvviso si ricorda di quando Sixo cercava di descrivergli quello che sentiva per la donna dei 45 chilometri. È un'amica della mia mente. Mi rimette insieme, amico mio. Tutti i miei pezzi me li rimette insieme e me li dà nell'ordine giusto. È bello, sai, quando hai una donna che è amica della tua mente. Poldi fissa la trapunta, però pensa alla schiena di Seth, in ferro lavorato, alla sua bocca deliziosa, ancora gonfia in un angolo per il pugno di Ella, i suoi occhi neri e cattivi, il vestito umido che si asciugava vicino al fuoco producendo vapore, la delicatezza che aveva mostrato davanti ai gioielli che lui portava al collo, le tre sbarre, come premurose sonagliere per bambini, ricurve in avanti che sporgevano di 60 centimetri. Lei non ne aveva fatto cenno, né lo aveva guardato. Così lui non aveva dovuto sopportare la vergogna di dover portare il collare come un animale. Solo quella donna, Seth, poteva lasciargli intatta la sua dignità d'uomo a quel modo. E lui vuole mettere la propria storia accanto alla sua. «Seth», le dice, «io e te messi assieme abbiamo più passato di tutti quanti. Ora abbiamo bisogno di un po' di futuro». Si china su di lei e le prende la mano. Con l'altra mano le carezza la faccia. «Sei tu la parte migliore, Seth. Tu». Le sue dita stringono le dita di lei. «Io. Io». C'è una solitudine che può essere cullata. Le braccia incrociate che stringono le ginocchia. Continua. Continua questo movimento che, a differenza di quello di una nave, rende calmi e contiene in sé colui che culla. È una cosa interna, tesa come la pelle. Poi c'è una solitudine che vaga. Neanche cullandola la si può tener ferma. È viva per conto suo. Una cosa secca che si allarga e fa risuonare i passi di chi cammina come venissero da un posto lontano. Tutti sapevano come si chiamava, ma nessuno, da nessuna parte, sapeva il suo nome. Dimenticata e inspiegata, non può essere perduta perché nessuno la cerca. E anche se la cercassero, come potrebbero fare a chiamarla se non sanno il suo nome? Anche se lei ha delle pretese, nessuno la pretende. Nel posto dove si fende l'erba alta, la ragazza aspettava di essere amata e il pianto della vergogna irrompe nelle sue parti separate. Così sarà più facile alla risata che mastica tutto di inghiottirla. Non era una storia da tramandare. Dimenticarono di lei, come si fa con un brutto sogno. Dopo che avevano messo insieme i loro racconti, dopo che gli avevano dato forma e li avevano infiorati, quelli che quel giorno la videro sulla veranda si dimenticarono di lei in fretta e di proposito. A quelli che avevano parlato con lei, vissuto con lei, che si erano innamorati di lei, ci volle un po' di più per dimenticare. Finché non si resero conto di non riuscire né a ricordare né a ripetere una sola parola di quello che aveva detto. E cominciarono a pensare che, a parte quello che era nei loro pensieri, non avesse detto assolutamente niente. Così, alla fine, la dimenticarono anche loro. Ricordare sembrava poco saggio. Non seppero mai dove o perché si rannicchiava, o di chi fosse quel volto sott'acqua di cui aveva così tanto bisogno. dove avrebbe potuto essere il ricordo di quel suo sorriso sotto il mento, e invece non c'era. Il gancio del chiavistello s'agganciò e Lichene attaccò al metallo la sua fioritura verde mela. Che cosa le aveva fatto pensare che le sue unghie potevano aprire delle serrature su cui pioveva la pioggia? Non era una storia da tramandare. Così la dimenticarono, come si fa con un sogno spiacevole durante un sonno penoso. Ogni tanto, però, quando si svegliano, si sente cessare il fruscio di una gonna e le nocche che passano su una guancia nel sonno sembrano appartenere a chi dorme. A volte la fotografia di un amico intimo o di un parente, osservata troppo a lungo, cambia e vi si vede muovere qualcosa di più familiare del volto caro che c'è lì. Possono toccarlo, se vogliono, però non lo fanno, perché sanno che se lo facessero, le cose non sarebbero più le stesse. Questa non è una storia da tramandare. Dietro al 124, vicino al fiume, le sue impronte vanno e vengono, vanno e vengono. Sono così familiari. Se un bambino o anche un adulto vi mettessero i piedi dentro, combacerebbero. Se li togliessero, scomparirebbero di nuovo, come se nessuno avesse mai camminato lì. Ora ogni traccia è scomparsa e ciò che è stato dimenticato non sono solo le impronte, ma anche l'acqua e quello che c'è là sotto. Il resto è atmosfera. Non l'alito di chi è dimenticato e inspiegato, ma il vento nei grondoni o il ghiaccio che in primavera si scioglie troppo in fretta. Solo atmosfera. Di sicuro non si sente reclamare a gran voce un bacio. Beloved. Oh, freedom. Oh, freedom. Maria Paiato ha letto Amatissima di Toni Morrison, traduzione di Giuseppe Natale. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, regia di Luigi Iavarone. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.